La casa è il posto dove vado quando non devo andare da nessuna parte. Che sembra un modo sgarbato per trattare una casa, però alla fine è così. Cioè, se devo fare qualcosa di più importante che stare a casa, la faccio. È così. È sempre stato così. Anche se in realtà negli ultimi anni le cose sono leggermente cambiate. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Mercoledì 29 settembre 2010, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Non è un mercoledì qualunque questo, per un paio di motivi. Il primo, perché la mia ricerca da casa continua a muoversi e sta accadendo qualcosa. Il secondo motivo è perché ho scoperto qual è, non so se rimane per tutta la vita, il nome da scout di Vittoria Mussini. La splendida redattrice di Io sono qui ha fatto la... Io sono circondato da scout. Dove mi giro, pesto uno scout. Paolino Corleone, Tiziano Bonini e adesso anche Vittoria Mussini. E questa storia del... Com'è che si chiama il nome di quando sei scout? Ha una il totem. Questa cosa del totem mi sconvolge. Perché, come dice Paolino, perché è vera, come dice Paolino, è vera. Per cui, se Vittoria Mussini è Vittoria Tartaruga Singera Mussini, è così. E sarà sempre così per tutta la vita. Perché lo scoutismo ti rimane dentro. Mamma, perché non mi hai fatto fare lo scout? Mamma, è colpa tua. Perché non è che uno decide. Quando è che si comincia a fare lo scout? A sei anni. È come quando cominci a giocare a tennis a sei anni. C'è il padre che ti obbliga a farlo, giusto? Poi magari non vinci i tornei ATP, magari fai solo dei gran campi scout per 10 giorni in estate, però è qualcosa che ti rimane qui dentro. Ma non è questo, non è solo perché ho scoperto Tartaruga Sincera oggi, che è un giorno importante. È perché stamattina ho visto una casa. E mi dicono che devo vederne tante di case, però forse è la volta buona. 800240024 349-238-6666. Oggi è un faccia a faccia con gli agenti immobiliari. La prima cosa che vorrei chiedervi è: ma perché c'avete ste cravatte con il nodo largo così? Cioè, ve lo insegnano al corso Tecnocasa prima di cominciare a lavorare? Oppure sembra una divisa. L'agente immobiliare lo riconosci dalle scarpe lucide e dal cravattone col nodo largo così. Anche se la mia agente immobiliare è una donna. Si chiama Paola e più tardi vi racconterò. Visto che, ragazzi, non puoi buttare lì tanto così. Che io l'altro giorno, sabato pomeriggio, nell'agenzia immobiliare ho incrociato lo sguardo di questa bionda e tutti: ma che fine ha fatto? Che fine ha fatto l'agente immobiliare? E mo' ve lo racconto. Semplicemente l'ho incontrata per vedere una casa. Però da quando cerco casa io ho sviluppato una passione morbosa per i programmi televisivi che parlano di casa. Siccome Simona, l'amica che mi ospita, spero ancora per poco, ha la parabola, allora ci sono decine di programmi televisivi sulle case. Il mio preferito in assoluto è una roba americana che probabilmente costerà 3 milioni di dollari a puntata, che si chiama Extreme Makeover Home Edition. Se non l'avete guardato, vi prego, guardatelo. Se avete la parabola, andatela a vedere. Praticamente è un gruppo di gente, c'è il conduttore, poi ci sono architetti, c'è stilisti, gente che sistema la casa, che piglia una famiglia e gli risistema la casa. Ora, la famiglia che prendono non è una famiglia normale. Per lo più sono poverissimi, ma proprio indigenza totale, roba che spesso non c'hanno nemmeno la fognatura sotto casa. Ma adesso l'asticella si sta alzando sempre di più, perché prima erano solo poveri, adesso hanno almeno 2 figli e uno di loro è molto malato. Almeno non c'ha una gamba, se va bene. Se va male, non ne ha 2 di gambe. Insomma, li prendono proprio della gente che tu dici mai esistono solo nei romanzi di Dickens, e invece no, ci sono nel cuore profondo dell'America. Loro li pigliano, li mandano per 2 settimane in un posto esotico a fare vacanza e intanto li pigliano con la catapecchia in cui vivevano, gliela stravolgono, gliela buttano giù anche con un certo godimento e gli costruiscono delle case talmente kitsch, delle robe talmente inguardabili, che però sono talmente giganti, come tutto quello che succede in America, che quando questi le vedono non possono far altro che ovviamente mettersi a piangere. Ce n'è un altro di programma, quello è una roba la BBC, quindi è un pochettino più in punta di dita, però quella roba mi fa venire l'ansia, perché ci sono queste coppie che fanno decidono di comprare, credo si chiami La mia casa in Italia o La mia casa in Spagna, dipende da dove vanno, se in Italia o in Spagna, vendono tutto, un po' come qualcuno mi ricorda qualcuno, e comprano una casa tipo in Toscana, in Umbria oppure nella Camargue, solo che questi c'hanno veramente 3 lire ed è abbastanza ansiogeno. E poi c'è un programma italiano invece che è fatto in Italia e ha quindi dei conduttori italiani. In particolar modo la conduttrice non è solo una conduttrice, perché è una professionista, è una che questo mestiere lo fa davvero. Che sia un'abitazione di lusso o un appartamento modesto, datemi una mano. Vendere e comprare casa è sempre un'avventura. Mi piace guidare le persone in questo percorso. Quando avete comprato questa casa? Scoprire tutto di loro per aiutarli a scegliere. Ci tocca una scelta. Mi piace la gente. Siamo pronti a scoprire il loft? Io sono Paola. Pronto Paola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere qui a Io sono qui a Radio 24. Paola, io innanzitutto la presento, lei è Paola Marella, che è la conduttrice di questo programma. Paola, mi perdoni, è cerco casa o vendo casa disperatamente? Sono tutte e due. Noi facciamo Cerco Casa Disperatamente, che è un po' un programma dove troviamo delle case veramente un po' particolari, forse più vacanza. Non mi usi il termine particolare, perché di solito di questo termine particolare c'è sempre la fregatura, Paola. Ma non è vero. Nel nostro lavoro è vero che esistono delle case veramente particolari. Okay. E poi c'è il Vendo Casa, che invece è un programma dove facciamo un makeover un po' semplice, perché non facciamo grandi cose, ma con piccoli tocchi rendiamo più divertente una casa, cioè, più facilmente vendibile. Per makeover intende semplicemente la rimettete un po' a posto? Un pochino, un po' cambiamo a posto. Qualche colore, qualche materiale, un po' di arredamento. Paola, lei che stranamente si chiama come la mia agente immobiliare che mi sta seguendo in questa ricerca, lei è di fatto un agente immobiliare, giusto? Io sono un agente immobiliare da più di 20 anni. E com'è che l'hanno selezionata come si chiama, Real Time, il canale? Time. Avevo la mia produttrice, che avevo un'amica in comune, e mi hanno chiamato, è partito come un gioco qualche anno fa, perché all'inizio era proprio... Adesso è una droga, Paola, io non riesco a non vederlo, lo registro. È molto divertente, perché ci siamo anche un po' perfezionati, devo dire, nella cosa, per cui cerchiamo anche delle case per il cerco casa veramente un pochino fuori dal comune, mi consenta sì. Questo termine, ma... mentre per il vendo casa sono case più semplici, ma comunque a cui diamo un sapore diverso. Però Paola, mi perdoni, la prima cosa che mi viene da chiederle, ma visto che conosciamo qual è il regime della televisione, no? Che più o meno... è tutto un po' contato su. Ma ste case sono vere oppure no? E i compratori sono veri oppure no? Assolutamente sì. Lei me lo dice così e io non posso far altro che crederle. Guarda. Senta, invece io vorrei un paio di dritte proprio, non tanto da conduttrice ma da agente immobiliare. Visto che di fatto uno che non è interessato a comprare una casa potrebbe chiamarla e dire vorrei vedere questa casa. Viene lì, le fa perdere, insomma le fa perdere. Si prende mezz'ora del suo tempo e poi non se la compra. Lei chiaramente non può dire di no, giusto? Certo che no, il dovere è assoluto di un agente immobiliare è quello di ascoltare. A volte ascoltiamo, anche siamo un po' psicologi a volte, il far bene il nostro lavoro secondo me è anche ascoltare e capire le esigenze del cliente. Senta, quante donne ci sono agenti immobiliari in percentuale rispetto agli uomini? Tantissime. Ma in percentuale 30 e 70? Ma secondo me sono 70 donne e 30 uomini, anche se in realtà ultimamente devo dire gli uomini... Ma sta cravatta, Paola, perché mettono tutti sta cravatta col nodo gigante? Ma è molto il franchising ha introdotto questa cravatta e la scarpa per l'uomo un po' quadrata. Ma allora è vero che li obbliga Tecnocasa a mettere la cravattona gigante o la Gabetti? Non facciamo nomi. No, però diciamo che sono loro. Però è assolutamente così, ma non solo loro, credo. Io ho un carissimo amico che fa questo lavoro come me da tantissimi anni, che ha un grande franchising in Italia, e devo dire che secondo me li obbliga un po' a uno stile che è un po' un perché informato. Ormai a me piace distinguermi. Lei, Paola, io invito chiunque ancora non la conosca ad andare a vederla, perché lei ha uno charme e uno stile inconfondibile. Comunque volevo dire che ormai sono due le categorie che si riconoscono per strada, quelli della Digos e gli agenti immobiliari. È incredibile. Paola, grazie mille, grazie davvero. Grazie. Alla prossima, arrivederci. Grazie. Complimenti grazie per quella droga che è cerco casa disperatamente. 800240024, oggi solo agenti immobiliari, perché ho bisogno di capire qual è la ammettetelo. Avete venduto una casa di cui non vi fidavate, proprio non ci contavate, era una ciofeca, eppure l'avete venduta e siete stati orgogliosi di quella roba lì. Solo agenti immobiliari. 800240024. Pronto? Oh, buonasera Paola. Bene, grazie. Sì? Ah, perfetto. Domani mattina va benissimo, sì. Facciamo... Per me è meglio verso le 10. Meglio le 10. Ok. In che zona è più o meno? Zona sud. Ripamonti? Ok. Va bene, poi guardo come arrivarci. Ed è monolocale. Sa dirmi anche più o meno quanto... Ok. Va bene. Ne parliamo domani. Sì, sì, sì, sì. No, va benissimo. Ok, perfetto. A domani. Grazie mille, Paola. Grazie. La mia agente immobiliare, perché si è presentata esattamente così. Buongiorno, sono la sua agente immobiliare. La mia agente immobiliare mi ha chiamato ieri sera e questa mattina sono andato a vedere l'appartamento. La faccia di Simona mi sembrava sollevata quando le ho detto che avevo appuntamento per una casa. Dunque, ho capito che quello che mi serve è una casa piccola. Una casa che non ti dia troppo pensiero, ma che ti permetta di starci comodo. Che alla fine la casa è il posto dove vado quando non devo andare da nessuna parte. Che sembra un modo sgarbato per trattare una casa, però alla fine è così. Se devo fare qualcosa di più importante che stare a casa, esco e la faccio. È così, c'è niente da fare, è sempre stato così. Anche se in realtà, negli ultimi anni le cose sono leggermente cambiate. Cioè, ho la sensazione che il significato, l'importanza della casa aumenti con gli anni. Cioè, quando si è bambini, la casa è tutto l'universo, no? Cioè, è l'unico luogo in cui si è liberi, perché, a parte gli spigoli dei mobili, i genitori si fidano lasciarti girare tra cucina, salotto, camera da letto, senza tenerti per mano in continuazione oppure nel passeggino. Poi, appena metti il naso fuori di casa, ti accorgi che c'è un mondo che ti aspetta, e allora lì non vedi l'ora di corrergli incontro. Se cresci in un paese piccolo puoi già uscire in strada e magari andare fino in piazza. Se invece vivi in città, il primo contatto con il mondo è il cortile, oppure il parco vicino a casa. E già lì la tua casa inizia a perdere il suo appeal. Poi arrivano i mezzi di trasporto e li scopri che tempo e spazio non sono più concetti filosofici. Perché se puoi andare dall'altra parte della città e metterci un'ora a piedi, mezz'ora in bicicletta, 10 minuti in Vespa, la tua vita prende una piega che non aveva mai avuto. E quindi a 17 anni la casa è proprio il luogo del mondo in cui vorresti stare il meno possibile. E poi vai all'università, o magari subito al lavoro, e quindi esci dalla casa in cui ti tenevano segregato per prendertene una tua. Però basta dare un occhio agli appartamenti degli studenti fuori sede per accorgersi che chi se ne frega di com'è messa la casa. Tanto l'importante è quello che c'è fuori, no? Il primo vero innamoramento per la casa però arriva intorno ai 25-30 anni, dipende dalla maturità e da quello che si è incontrato nella vita. Lì ci si rende conto che anche stare in casa la sera non è poi così male, no? Cioè che tornare nella propria casetta a cucinarsi una cena, invece che pizza e kebab da asporto, ha quasi un sapore piacevole. Ecco, tutto questo in genere accade in concomitanza dell'incontro con un'altra persona, con la quale si decide di andare a vivere. Ecco, ora sarebbe troppo facile dire che nel giro di pochi anni tutto è di nuovo pronto a ribaltarsi e la parte che si gode di più nella giornata è quella fuori, che si tende a prolungare all'infinito per tornare il più tardi possibile a casa. È troppo facile e infatti non lo farò. Anche perché io, in quella condizione, fortunatamente, o forse no, non lo so, non mi ci sono mai trovato. E soprattutto perché io, una casa, dopo che l'ho venduta, ancora non ce l'ho. Tell me that you want an hour just for old time's sake. Io arrivo all'appuntamento con 5 minuti di anticipo. Niente, è più forte di me. Io non riesco ad arrivare in ritardo. È una cosa che mi deriva da mio padre. Il suo motto è meglio 5 minuti prima che 5 minuti dopo. La zona in cui si trova l'appartamento non è esattamente quella che mi piaceva di più, però ho accettato la regola del compromesso sin da subito e quindi me la sono fatta andare bene. Ci arrivo con il 24, che è un tram che parte dal centro e va verso la zona sud di Milano. Scendo un paio di fermate prima del dovuto perché mi piace guardarmi in giro passeggiando. Ecco, come molte zone di Milano, questa era una ex area industriale che è stata rivalorizzata, così mi ha detto la mia agente immobiliare. Ci sono un sacco di edifici dismessi, lunghi, con i tetti a spiovente, di fianco ad altri invece nuovi e anonimi. Cammino su un ponte che passa sopra una ferrovia. Mi affaccio al parapetto e nel cortile di una fabbrica dismessa vedo due ragazzi uscire da una porta. Una porta che dà probabilmente su uno scantinato, nella pancia della fabbrica abbandonata. Passano sotto ad un cavo dove sono stesi dei panni ad asciugare. Scavalcano un muro arrampicandosi su una scala a pioli. Attraversano la ferrovia, si infilano nella fessura aperta di una rete di metallo, e sono in strada. Li guardo dall'alto come se fosse una ripresa aerea di quelle che si vedono nei telegiornali. Credo siano magrebini, avranno 30 anni. Sono vestiti con jeans e magliette firmate. Sono puliti e pettinati. Penso che io non sono proprio pettinato, ma che in fondo sono fortunato a non dover vivere nello scantinato di una vecchia fabbrica. Arrivo in fondo al ponte e mi infilo in un parchetto che è costeggiato da una roggia, che a Milano, vedere un fiumiciattolo, anche se sembra più un canale di scarico, ti mette di buon umore. In fondo al parco ecco la via che mi ha indicato la mia agente immobiliare. La casa è strana per una città. Non è un palazzo, sembra più una casa di paese, su due piani, in mezzo ad altre case basse. Mi ricorda Romentino. Nel frattempo la mia agente immobiliare ha già 10 minuti di ritardo e mentre guardo l'orologio improvvisamente mi ricordo che a me gli agenti immobiliari non piacciono. Che li trovo troppo intermediari per fidarmici, troppo ineleganti con quelle cravatte con il nodo gigante. E io mi ero ripromesso che avrei affittato la casa direttamente dal proprietario. E invece non so nemmeno come, sono qui ad aspettare la mia agente immobiliare che è pure in ritardo. Sento un clacson che suona e vedo una donna bionda di circa 40 anni con gli occhi grandi che mi sorride da una smart e non ha nemmeno la cravatta con quel nodo orribile. E appena scende dall'auto capisco perché sono qui. Zero 0024 solo agenti immobiliari che mi raccontino l'affare della loro vita, quello in cui non credevano nemmeno loro. Anche se qualcuno 349-238-6666 mi scrive 80 metri quadri appena ristrutturata, tre locali, cotto e palché, arredo moderno. Ma palché si scrive con la R, no? Con la RQE, non parquet, non palché, con la L, la C, la H e la E. Va bene, Claudio, grazie lo stesso. E poi Enrico da Ferrari mi chiede: mi dica, per favore, come fa a riconoscere quelli della Digos? Guarda Enrico, di solito hanno il giubbotto di pelle in inverno e poi prima andavano sempre in giro con la Brava, con la Fiat Brava, bianca per lo più. Adesso invece spesso hanno la Hyundai. Comunque, che sia della Digos oppure no, c'è la borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto c'è una postazione di lavoro. È una postazione di un artigiano. Direi che è un artigiano dei gioielli, probabilmente. Quindi potrebbe essere un orfo o un gemmologo. È proprio una piccola scrivania con il piano in metallo, per cui credo che sia più facile recuperare gli oggetti piccoli, i gioielli e le piccole pietre che sono distribuite sopra. Ci sono 5 pinzette di metallo. Una è proprio una pinzetta tipica di quelle che usano le donne per strapparsi i peli. Ce n'è anche mia madre a casa, ne ha 4 o 5. Le altre 4 invece sono pinzette da lavoro. Sembrano le pinzette degli elettricisti, quelle che usano per tagliare i cavi, e hanno il manico molto grande e invece la punta molto sottile di precisione. Ecco, se non fosse per queste pinzette qua, che sono chiaramente moderne, potrebbe essere una postazione di 50 anni fa o di un secolo fa. Perché ci sono proprio tutti gli strumenti di un artigiano, ci sono cose nascoste in uno scaffale, spuntano giusto i manici in legno, una matita, un contenitore tipo quello del cabaret di paste, però pieno di piccoli gioielli, una scopetta per ripulire il piano, un pennellino e 1, 2, 3, 4, 5 contenitori, anche questi pieni di gioielli, credo siano oro, braccialetti, collanine e piccole gemme. Stefania Zanotti, 34 anni, questo è il mio banchetto, ogni giorno davanti alla mia scrivania d'orafa creo degli oggetti, dei bracciali, degli orecchini a seconda della mia creatività. Io sono qui. Sta diventando sempre più grande la cartella di foto di voi dove siete, che la trovate sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. È un gioco molto semplice, è proprio cercare di capire dove siete voi in questo momento o nel momento che preferite. Sono arrivate oltre 100 foto che rappresentano decine e decine di cose diverse. Alcune sono fotografate la propria faccia, altri, come ha fatto Stefania, la postazione di lavoro. È arrivata la foto di una pancia, quindi credo che sia di una mamma che aspetta un bambino. Potete fotografare quello che volete per capire dove siete e farlo capire a me. Molto semplice, il profilo è Matteo Caccia, io sono qui su Facebook, oppure c'è la mail che funziona, mi assicurava Vittoria Tartaruga Sincera Mussini, io sono qui @radio24.it. Sta partendo un delirio intanto, al 349-238-6666 arrivano tutti i totem. Valentina che dice: anch'io sono una scout, il mio totem è anatroccolo incantato. Peraltro questa foto che ho appena descritto potete vederla sul sito di Radio 24, che è radio24.it, sulla pagina di Io Sono Qui. Ogni giorno c'è la foto che racconto. Se volete partecipare, io sono qui e voi siete lì, cioè sul sito. 800240024 invece, perché sto veramente chiedendo agli agenti immobiliari di chiamare e aprirmi il loro cuore, un po' come ha fatto Paola Marella, per capire, ammettetelo, siete dei professionisti, non è quello che stiamo mettendo in discussione, però anche voi avete rifilato una sola, una volta, cioè vi siete messi lì, avete venduto una casa in cui non credevate, non solo non ci credevate, ma non immaginavate che l'avreste mai venduta, lo confessate apertamente, 800240024 oppure 349-238-6666. Prima invece sul profilo c'è stato una sorta di colpo d'orgoglio di Giacomo, che è un agente immobiliare, e andate a vederlo perché ha scritto una sorta di tema su com'è la giornata di un agente immobiliare. Non la posso leggere tutta perché è lunghissima, descrive dalla mattina fino alla sera quello che fa, ed effettivamente ce ne sono di robe da fare. E poi chiude: ecco, l'agente immobiliare fa questo per il 99% del suo tempo gratis, riscuotendo solo l'1% del suo tempo, e si sente dire: cavolo, mi hai portato a vederla e l'ho comprata subito, e ora vuoi tutti questi soldi. L'agente immobiliare prima è come il contadino, cioè prende un terreno, il mercato, lo ara, crea i presupposti per farlo funzionare, lo coltiva con i semi che ha e cerca di far crescere le piantine annaffiandole di continuo con la sua opera. Poi l'agente immobiliare diventa il fornaio. Quando trova l'incastro, cioè compratore e venditore, prende il grano, gli interessi contrapposti delle due parti, lo impasta, lo fa lievitare, cioè ci mette la sua opera mediatrice, lo cuoce e lo sforna pronto da mangiare. Ecco, in quel momento arriva il notaio, che ha il supermercato, dove i fornai portano il loro pane, ci piazza due etichette, il prezzo, gli ingredienti, e sembra che il pane l'abbia fatto pure lui. Grande Giacomo, questa chiaramente è sempre lezione di Tecnocasa, dei corsi pre o Gabetti, no? Quelli che ti fanno una testa così per noi siamo forti, noi siamo i migliori, ma noi abbiamo le case migliori. 800240024 349-238-6666. Andiamo a Lorenzo, andiamo da Lorenzo, perché Lorenzo è un ascoltatore. Prima su Facebook gli ho chiesto se c'era un agente immobiliare dall'altra parte dello schermo, lui mi ha detto: l'ho fatto per 10 anni, adesso non lo faccio più, però 10 anni sono un buon numero. Pronto Lorenzo? Ciao. Ciao, come stai? Ma bene. Da dove chiami Lorenzo? Ma adesso dal Friuli, in realtà sono di Monza. Che lavoro fai adesso? Vendo arte, ho sempre venduto in vita mia, è l'unica cosa che so fare. E ti hanno fatto un corso per vendere arte? In realtà no, ho venduto dal primo giorno, non so io come. Ma arte, scusa, che tipo di arte? Sculture, numismatica, quadri, icone, dipende. Insomma, ci guadagni questa roba? Beh, ci campo più che altro. Scusami, in media quanto porti a casa in un anno? Dipende, ci sono mesi in cui... Diciamo quello che dichiari, va Lorenzo, che qua su Radio 24 siamo ligi su questo. Quello che dichiari... Lascerai stare, però ti dico, si può campare bene, insomma, ti dico. Vabbè, un agente immobiliare. Al mese sti 2000 li porti a casa? Sì, anche di più. Anche di più, ok. Quindi è un lavoro che consigli? Beh no, perché altrimenti poi ce ne sono troppi. Ma è un lavoro molto faticoso, io faccio 400 km al giorno, quindi no, lo sconsiglio più che altro. Ma e ti porti la roba in auto? Cioè, quindi viaggi con roba di valore anche? Sì. Va bene, invece veniamo all'agente immobiliare, Lorenzo. No, io non ti volevo raccontare di una sola, in realtà appunto dell'affare in cui non avevi mai creduto. Cioè, dimmelo allora. Brevissimamente, io mi occupavo più che altro di capannoni, uffici e negozi, quindi non residenziale, ma più che altro industriale, sì, commerciale. Sì. una mattina sfigatissima di pioggia, io ero ancora alle prime armi, le mattine in cui ti svegli con il foruncolo, ti svegli con mal di schiena, vuoi cambiare lavoro, esco, vado alla ricerca di immobili da vendere con un mio, allora diciamo, responsabile più esperto di me, mm-hmm. e mi dice, no guarda, quella ditta lì non suonare neanche perché è 10 anni che ci fa tribolare, comunque non ci riceve, non ci fissa appuntamenti, non vuole collaborare con l'agenzia. Sì. Io torno in quel numero civico, in quella via la sera, da solo, citofono, insomma io con quei clienti ho lavorato per 4 anni, gli ho venduto e affittato l'intero loro impero di capannoni, uffici, ho venduto la loro casa in montagna, ho venduto un intero cantiere costruito da loro anni dopo, mi hanno invitato a cena. E gli hai sposato pure la figlia. E dopo lì basta, ti sei dato all'arte. E no, ho fatto questo lavoro quasi 10 anni e poi... Lorenzo, scusami, veramente un botto, insomma. Prima di salutarti, cosa hai venduto? L'ultima cosa che hai venduto di arte, cos'era? Un quadro? L'ultima cosa... ho venduto una scultura di Salvador Dalì. Ah, per quanto? 3.300 euro. Così basso Dalì? E sono dei multipli, quindi non sono opere uniche, anche perché è un'opera unica di Dalì, capisci che è pressoché inestimabile. Cioè, cosa vuol dire dei multipli? Che hanno fatto un calco e poi l'hanno... Dalì praticamente ha dato un lascito per cui c'era la possibilità di produrre tot esemplari. Ok. Noi siamo esclusivisti di questo prodotto. Vatti a vedere la mostra di Dalì a Milano, fra l'altro. C'è roba tua? No, però penso che sia interessante. Grazie Lorenzo, buona giornata. A te, ciao. Ciao. Andiamo a Macerata da Letizia. Pronto Letizia? Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Stai andando a vendere o a piazzare case? No, oggi pomeriggio no, però sono stata questa mattina a vederne alcune in campagna, io mi occupo solo di casali, case da ristrutturare nella campagna marchigiana, e quindi non ho... vabbè, la cravatta no, perché sono una signora. Però le scarpe di vernice ce le hai. Ma quando? Porto gli stivaloni, quelli da pesca, per andare nel fango, ma altrimenti quindi... rimarrei proprio incalzata con le scarpine. Ma quindi tu hai a che fare, Letizia, hai a che fare con budget piuttosto alti, immagino, se si tratta di casali. No, ci sono dei casali anche a 50.000 euro, poi dipende dalla posizione, no, dove si trova. Senti, dimmi il casale che hai venduto che proprio ma non ci pensavi nemmeno che ce l'avresti fatta. Ma guarda, ho venduto un affare, perché io lo chiamo un affare, perché è un certo, ammasso di perché pesce, sola non... vicino ad un, noi li chiamiamo fossi, no? Quelli giù in fondo alla valle proprio, sì. A dei signori inglesi che venivano dalla City proprio, quindi dopo 40 anni di lavoro di smog eccetera, sì. Non volevano assolutamente nessuno, hanno comprato questa casetta piccolina, carina. Quanto l'hanno pagata? Ma l'hanno pagata 100.000 euro perché hanno comprato 4 ettari di terreno. Ho capito. Perché senti, non volevano proprio nessuno ma, intorno. Ma è vero, visto che le Marche sono la nuova Toscana, no, in realtà sono la nuova Umbria che era la nuova Toscana, giusto? No, le Marche sono le Marche, perfetto. Punto. Nuovo niente. Brava. Dimmi quante, in percentuale, quanti stranieri comprano da te? Guarda, adesso è diminuita la percentuale, sono ritornati moltissimo gli italiani del nord, devo ammettere, molto meno gli inglesi per via della crisi, eccetera. Ci sono molti svedesi, molti olandesi, belgi. Ok, perfetto. Però in percentuale ora sono più gli italiani, devo dire. La cosa più costosa che hai nel tuo portafoglio? Ci sono delle ville dimmi una cifra, anche 4 milioni di euro. Grazie Letizia, ma cose che non venderemo mai. A te, grazie a Letizia, grazie a Tiziano Bonini, a Vittoria Tartaruga Sincera Mussini. È arrivato anche un altro Totem Scout. Io ero giraffa goffa, ero un infame e l'ho pagata. Grazie anche a Paolino Corleoni. Oggi ho parlato con degli agenti immobiliari, mi sono riappacificato un po' con me stesso, ho visto una casa e soprattutto sto pensando a cosa fare. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?